e benvenuto nella mia blog radio. Sono stata presa anch'io dalla sindrome della radio blog, la sindrome di Bach, che è stato, diciamo, un precursore della radio via blog e che mi ha fatto venire voglia anche a me di parlare su internet. Sì, sono molto riservata generalmente, ma penso che condividere la musica mi aiuterà a superare un po' di timidezza. No, non ci provate, la foto non l'avrete mai, no. E d'altronde, ma che cosa ve ne fate di una foto in fondo? Quando ascoltate la vostra radio preferita, non credo che sentiate tanto il bisogno, no, di vedere come è fatto il vostro DJ preferito. Stessa cosa per quando leggete un libro, o magari, non so, qualsiasi altro contenuto che vi possa dare emozioni, ecco. Diciamo che l'immagine a volte può dare qualcosa in più, o a volte può essere assolutamente indispensabile. Perché ho scelto di aprire anche una mia piccola trasmissione radio blog, perché sono mesi che condivido con voi emozioni musicali, diciamo più che altro attraverso post ispirati dalla musica. Questa volta così ho provato a metterci la voce e ho scelto per voi un brano che secondo me è bellissimo. Non so quanti di voi lo conoscano, onestamente ogni volta che lo sento mi fa venire i brividi per la musica, per il testo. Sto parlando di un brano anni 70, un brano che mi fa una volta ancora di più sentire attratta dagli anni 70, non so per quale strano motivo, gli anni 70 esercitano su di me un fascino istintivo, diciamo, quasi irrazionale. Chissà, forse sono la reincarnazione di un personaggio vissuto in quegli anni, non lo so. D'altronde lascio che sia la musica a parlare, perché se sono logorroica, almeno quanto sono grafomane, sono affaracci vostri. Ed ecco a voi Che cosa sei di Alberto Radius. Piccolo incidente del percorso, eccolo qua. Prendere in mano la logica, un giorno idiota, a farla vibrare nell'aria lasciando che il vento la scuote, a ridere dei tuoi ricordi e di vergini mani, a fare una croce su ciò che ti aspetta domani, a mettere in dubbio la morte, la ragione e il peccato. Ci hai mai provato? Che cosa sei? Che cosa sei? Io me ne accorgo solo quando te ne vai. Che cosa sei? Che cosa sei? Perché non ti sente, a mettere fiori sul cuore una donna che non vale niente, a lasciare bruciare i tuoi sogni su stelle di fuoco per scoprire che senza i tuoi sogni di te resta poco, a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato? Che cosa sei? Che cosa sei? Io me ne accorgo solo quando te ne vai. Che cosa sei? Che cosa sei? Io non lo so, ma non mi dire che lo so. Lasciamo sfumare queste ultime note. Come avete sentito, il bello della diretta, sono stata anche interrotta nella mia prima esperienza blog radio da mia madre, che bussando sulla porta mi invitava ad abbassare. Giustamente, siamo in un condominio e i coinquilini potrebbero essere un attimino disturbati dai miei esperimenti musicali. Spero che abbiate gradito questa canzone. Onestamente vi consiglierei di prestare molta attenzione al testo, che ritengo veramente, veramente, veramente molto bello. Avete apprezzato anche i virtuosismi chitarristici di Radius, che diciamo non conosco benissimo, però da quel poco che ho potuto vedere su internet era molto apprezzato, diciamo, in quegli anni. E ha anche militato nei Formula 3, collaborando anche con Lucio Battisti. E devo dire che, a dispetto di quanto abitualmente io faccia, anche, cioè, diciamo, di solito ascolto spesso più che altro musica straniera, sono piuttosto esterofila, ma non per partito preso, semplicemente mi trovo molto attratta e ispirata da brani stranieri. Devo ammettere che invece la musica prodotta in Italia in quegli anni, quindi anni 70 e 80, è discretamente molto elevata, sia a livello, diciamo, di contenuti che a livello di musica. Bene, per questa volta mi fermo un attimo qui, non so come si fa tecnicamente a mettere in pausa e riprendere la registrazione. Se ci riuscirò, mi risentirete più tardi. Bene, continuiamo con una nuova proposta, nuova, diciamo, nella mia playlist nuova. Un altro cantautore a me molto caro, Rino Gaetano. Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione. Fabbricando case, popolari, biservizi secondo il piano regolatore. Fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità. Fabri- fabbricando case. Lasciamo andare fino all'ultima nota questa Fabbricando Case di Rino Gaetano. Beh, perché ho scelto questa canzone non è difficile da immaginare in questo momento attuale in cui comprarsi una casa è quasi un'utopia, soprattutto a Roma, la capitale, dove comunque anche un monolocale costa, diciamo, come una reggia. E non diamo sempre la colpa all'euro, perché non è solo quello perché di tanto scempio per la gente che lavora e non si può neanche permettere un buco dove abitare. Comunque, via, smettiamola con le polemiche, la musica è quello che conta. E adesso faccio una breve pausa e tornerò tra poco, sempre per motivi tecnici, con un altro brano. E adesso andiamo avanti con un altro artista italiano che amo molto, Ivan Graziani, Taglia la testa al gallo. Taglia la testa al gallo se ti pecca nella schiena, taglia la testa al gallo se ti pecca. Taglia la testa al gallo se ti pecca nella schiena, taglia la testa al gallo se ti pecca. Thank you. vite provi. Se fratello straniero c'è ancora di mezzo il mare, dimmi se è vero e che non vuoi tornare. Anche tu taglia la testa al gallo se ti becca nella schiena, taglia la testa al gallo se ti becca, taglia la testa al gallo se ti becca nella schiena, taglia la testa al gallo se ti becca. Abisso di dolore, sazzata dai venti, tu non puoi parlare. Non è un illuso, io vorrei che fosse vero, che ogni mano che apre il tuo ventre così può partorire. Allora taglia la testa al gallo se ti becca nella schiena, taglia la testa al gallo se ti becca, taglia la testa al gallo se ti becca nella schiena, taglia la testa al gallo se ti becca, taglia la testa al gallo se ti becca nella schiena, taglia la testa al gallo se ti becca. E tagliamola la testa a questo maledetto gallo che ci perseguita, che non ci fa vivere. Dovremmo avere un po' più di coraggio tutti quanti e cominciare, insomma, a farci un po' rispettare, ecco. Sempre battagliera, anche se non lo vorrei, alla fine mi escono sempre fuori un po' di moti un po' ribelli, a dispetto poi di quello che magari poi faccio anch'io nella vita di tutti i giorni, insomma. È facile poi sfogare la propria rabbia, molto più difficile farle trovare, diciamo, una giusta applicazione nella società di tutti i giorni. Ivan Graziani è un altro di quei personaggi forse ingiustamente un po' dimenticati, e mi dispiace constatarlo, perché di lui di solito si citano i brani più famosi, Firenze, detta anche Canzone triste, Lugano addio, mentre lui aveva un'anima decisamente rock, non solo a livello proprio musicale, sentite infatti che grinta, che carica, era un grandissimo chitarrista, ma anche i testi. Vi invito, se vi capita, ad ascoltare Lupi, quella che stiamo sentendo adesso in sottofondo, e un'altra canzone, Pigro, il chitarrista, ma questi sono solo alcuni dei pezzi che io conosco, diciamo, non è che conosco tutta la sua discografia, ma da quello che posso aver apprezzato, beh, decisamente meriterebbe molta più attenzione di quella che, insomma, gli si dà normalmente. Bene, torniamo sempre fra pochissimo. Ancora sono più che dilettante, anche la qualità audio non è delle migliori. Se vi dico come sto registrando, mi fate proprio quattro risate. E ho avuto un po' di problemi a regolare un po' i bassi, un po' i volumi, anche perché sono le 14 di questa giornata di registrazione a rate e non posso alzare più di tanto il volume. E ora un brano del 77, un anno chiave nella politica, nella storia, diciamo, recente italiana, un testo che ha più di un significato metaforico e non solo. Invito a fare attenzione alle parole. Lucio Dalla. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inattivisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Con

Ma noi siamo salmoni e che ce frega, noi andiamo controcorrente. Bene, vedo che continua a uscire fuori questo mio pensiero un po' così, un po' polemico, ma sono fatta così, questo fa parte di me e quindi ce lo metto sempre in mezzo un po', no? Anche Lucio Dalla, beh, uno di quegli artisti che nella sua carriera ha fatto di tutto, è arrivato persino nei tempi più recenti a fare un musical ispirato alla Tosca, un artista controverso. Onestamente preferisco i suoi brani più vecchi, anche non solo perché a livello di testi mi dicono di più, ma perché sono legati anche ai miei ricordi d'infanzia e ai viaggi in macchina con mio padre e la mia famiglia. E quindi quando ascolto quei brani inevitabilmente mi rivengono in mente quei momenti, insomma. Spero che vi sia piaciuto questo brano e adesso vediamo cosa tirerò fuori dal mio cilindro blog radiofonico. E ora un brano che a me piace moltissimo, mi fa ridere e emozionare anche. Presto vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Play! Mi insegnerò l'amore, a recitare le preghiere, ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi, di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è che tocca sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. E sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Forza, cosa aspetti? Vatti a mettere anche tu in fila per tre. No, scherzo. Questo è un esempio, diciamo, dell'ironia di Edoardo Bennato, un altro artista caro non solo per i testi, ma anche per i ricordi d'infanzia, sempre mio padre l'artefice. E mi ricordo anche di averlo visto dal vivo nella mia città, nel mio quartiere periferico. Era venuto ai tempi con la sua fisarmonica, era noto come One Man Band, suonava tutto lui, faceva di tutto, chitarra, percussione, fisarmonica a bocca, un grande, diciamo, un paragone magari non regge, forse è troppo, però diciamo un Bob Dylan de Noantri, e anche lui ha scritto dei testi eccezionali. Vi invito veramente ad ascoltare Signor Censore e tutti quei testi degli anni 70, appunto. Bene, vediamo adesso come concludere questa puntata. Peccato perché ci ho preso veramente gusto. Devo dire che non è niente male fare queste cose. È emozionante, davvero. Chissà che non ripeta l'esperienza. A fra poco, allora. Bene, diciamo che come i cornuti ho ripensato. Questo non è l'ultimo brano, è il penultimo. E andiamo con Io so pazzo di Pino Daniele, un brano che mi rispecchia molto. Thank you. il titolo di questo brano, neanche a dirlo, Iso Pazzo di Pino Daniele. Beh, diciamo che un brano che conoscono più o meno tutti. Chi non ha mai pronunciato con godimento mi so scassato cazz? Beh, io spesso, devo dire. È un brano che ho scelto più per istinto e senza pensare al periodo, diciamo, in cui fu scritto. Però prima di metterlo, diciamo, in onda, ho fatto una veloce ricerca su Google e guarda un po', l'anno era 1978. Vedi, a volte l'istinto come ci guida da solo, come un pilota automatico a volte. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Io ora vado a mettere l'ultimo brano di questa mia esperienza. Vorrei fare uno speciale ringraziamento a Bach di Radio Pazza, che è, diciamo, colui che mi ha fatto venire l'idea di fare anch'io una mia playlist, diciamo, con quattro chiacchiere in libertà, tutto improvvisato. E niente, chissà se avrò il coraggio di metterla, di pubblicarla. Se mi stai ascoltando, vuol dire che alla fine l'ho fatto, l'ho messo sul blog. Bene, che dire, è stato molto bello, ma adesso andiamo a concludere con un brano che ho trovato in una versione particolare, un brano sempre di quegli anni, reinterpretato dallo stesso Claudio Lolli con Il parto delle nuvole pesanti. Andiamo ad ascoltarcelo e alla prossima, spero. Ciao. Il brano è Ho visto anche degli zingari felici, live. Noi che sopportiamo la malattia del sole e la malaria, e noi mandiamo raccolto cotone, riso e grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altipiano, e noi penetriamo foreste, coltiviamo salame, le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontano, e da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano un favorito. E siamo noi a far bella la luna, noi con la nostra vita coperta di stracci e di sassi di vetro, ma quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un sole, come un ragno nella stanza. La riprendiamo in mano, riprendiamola in te, riprendiamoci la vita, la terra, la luna, l'abbondanza. We'll be right back. rotolarsi dietro far l'amore e rotolarsi per te. L'ho visto anche dei visitori infelici in piazza Maggiore, un'altra città, una piazza di guerra.